Sconvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Nuovo buongiorno a tutti, passato bene il Natale? Spero proprio di sì, me lo auguro. Ieri vi abbiamo riproposto il giorno dopo Juventus-Roma, quindi qualcosa di tranquillo. Oggi siamo buoni, parliamo di settori giovanili, parliamo di sport per bambini, di oratori. Franco Piantanita, il nostro autore, non vuole. No, non si può fare. Va bene, allora cambiamo argomento. Gianmarco Ferronato in regia e un altro bello scazzo, si può dire, il giorno di Santo Stefano, va bene, forse no, ma non ritratto, prima mezz'ora, dedicata al duo Daniele Bellasio, Cristian Rocca, direttore di Il, uno interista, l'altro juventino, l'un contro l'altro armati. Sentiamoli. Ciao Ilaria, un po' che una palla a Madano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili, cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita, forza Sampdoria. Ne la faccio più. La Sinisa come si chiama di cognome? Megalakovic. No, perché non dice mai il cognome, perché dice che dice. Mihailovic. L'ho imparato, no? L'hai imparato. Buonasera Presidente Ferrero e grazie per aver accettato il nostro invito. L'ho accettato molto volentieri perché lei è un grande giornalista. Grazie molto. Senta, se quando... Lo dico a tutti, eh? Lo so, infatti non mi monto la testa, stia tranquillo. E quest'estate veramente pensavo che il calcio si lavorasse poco. Chiedo scusa a tutti quanti gli addetti ai lavori perché... Io ho fatto veramente la ditta Berardi, la mattina presto, la sera tardi. Ho questi meravigliosi tifosi sensibili che ci credono e poi è divertente che in questa città ci sia la Samp e l'altra squadra e loro impazziscono perché poi ho preso... Come dice un signore, un attico in centro di Sampdoria, per cui lei la squadra è una sola, la Sampdoria. La ricetta del pesto la conosce, sì? O preferisce sempre la matriciana? No, la matriciana è un'altra storia. Quindi preferisce la matriciana? Non è paragonabile, è più genuina, è più semplice, come siamo semplici noi romani. Quindi però il pesto però le piace, lo fa con le patate o senza? No, le patate stavano sul campo ieri. Vabbè. Tutto quello che ci siamo persi nel weekend in mezzo alla polvere di Juventus-Roma. Che invidia. Ho perso Pardo, perché se n'è andato, ma abbiamo raddoppiato adesso altri due graditissimi interlocutori. Uno è Daniele Bellasio, fa RadioTube con Marta Cagnola, lo conoscete tutti, ed è interista. Sì. Ciao. Ciao. L'altro è Cristian Rocca, direttore di Il Mensile del Sole 24 Ore, ed è juventino. Ciao. Buon pomeriggio. Non svegliamo niente, no? Cioè, tutto chiaro e pubblico. In alcuni casi la definizione che hai dato è un insulto, in altri casi è, diciamo, un motivo di orgoglio. È semplicemente una questione di gusti. Sì. Come hai vissuto questa domenica? Alla ditta Berardi, dalla mattina presto alla sera tardi. Berardi è un ottimo giocatore del Sassuolo, di una squadra importante, di proprietà di un grande imprenditore. Abbiamo capito. Io ero allo stadio. Sì. Ero allo stadio, è stata, al contrario di quello che hanno detto in molti, offuscati dal tifo, è stata una bellissima partita, nonostante, diciamo, gli episodi un po' da corrida che si sono succeduti a mano che la partita si è andata avanti. È stata una bellissima partita con un'intensità incredibile, dove la Juve ha meritato la vittoria, la Roma ha fatto un'ottima impressione, ma io sinceramente mi aspettavo e temevo molto di più da questa Roma. Squadra. Sì. Pensavo che la Roma si fosse molto rafforzata nella rosa e la Juventus ovviamente doveva ancora pagare il pegno, lo scotto del cambio di allenatore. Alla fine le due squadre si sono un po' avvicinate, ma la Juventus secondo me ancora un attimo davanti alla Roma. Daniele Bellasio, tu sei d'accordo? Prima Baldiserri ha usato un aggettivo a proposito delle esternazioni di Francesco Totti, non un aggettivo, un avverbio, giustamente. È giusto che il capitano della Roma si incazzi e vada a dire quelle cose? Bah, sì, perché sì. No? Insomma, se Bonucci scrive quello che ha scritto Bonucci, sì, ci avrà qualche diritto, forse anche in più, sì, Totti a dire quello che ha detto. Ma è il problema che accade, il problema non è questa domenica, ovviamente, non è nemmeno l'arbitro Rocchi, evidente a tutti che ha sbagliato completamente tutta la partita, quindi lo ammette anche Christian nel suo profondo, non pubblicando. Ha sbagliato. Il problema è ripetutamente sempre la stessa storia, persino noioso, tutte le volte che la Juve apre un ciclo gli arbitri arbitrano allo stesso modo, nel dubbio pro Juve, che non è un complotto, non è cattiva fede, è semplicemente che nel dubbio pro Juve. La cosa, parlando di sudditanza psicologica. Sì, è una cosa, adesso Rocca dirà che è stata inventata per Allodi nei confronti dell'Inter, sappiamo già. Sì, che è vero. Che è vero. Ma infatti probabilmente ci sono state fasi in cui la sudditanza psicologica era anche nei confronti di altre squadre. Il problema che nei confronti della Juve è una storia ormai secolare. Peraltro la Juve, e lo notavo per prepararmi a questa trasmissione, essendo meno tecnico di Rocca, sicuramente anche di te Carlo, per prepararmi ho pensato una cosa: tutte le volte che la Juve apre un ciclo è perché il calcio italiano è in crisi, e quando il calcio italiano è in crisi gli arbitri gli viene quella normale sudditanza nei confronti dell'unica squadra che c'è. Io la penso. Ma poi l'ambulanza, quella di Cruciani, arriva è troppo presto ancora? No, l'ho preso così al contrario, cioè nel senso che il calcio italiano è in crisi senza una Juventus forte. Cioè il calcio italiano ha bisogno di tutto questo, ma ha bisogno di una locomotiva forte. Ma com'è che le squadre italiane vincono le coppe quando il campionato è un'altra squadra e dominano 4... in Europa e nel mondo con l'Inter di Mourinho, col Milan di Sacchi, col Milan di Capello, e invece quando la Juve vince i campionati poi fatica in Europa? Come l'Italia ha vinto 4 campionati del mondo, tutti e 4 con un blocco Juve. L'unica volta che c'è stato il blocco dell'Inter, l'Italia ha perso contro la Corea del Nord. Vabbè, con gol del dentista. In questa fase, Pacco, Carlo, in questa fase il calcio italiano in questa fase è all'avanguardia nel mondo, no? Siamo un modello da seguire per tutte le squadre. Questa fase no, ma la colpa è, come sai, della gestione calciopolista che ha distrutto il calcio italiano, che aveva due gioielli, che erano la Juventus e il Milan, che nel giro di 10 anni hanno fatto 7-8 finali di Coppa dei Campioni, in alcuni casi l'una contro l'altra, e quel disastro avvenuto nel 2006 con una manovra di palazzo, perché si è visto che anche altre squadre, e non dico quali, ma tu le sai, le conosci, sono a te vicine, avevano fatto esattamente le stesse cose, se non peggio, accertate, solo che le telefonate sono state trovate dopo alcuni anni. Le SIM non le abbiamo comprate noi. Quindi le il disastro del calcio italiano, che è evidente, nasce dalle SIM. Mi sto divertendo moltissimo. Anche se l'hai sentita un po' No, qualche volta le ho sentite. Le SIM. Alberto, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Provincia di Brescia evidentemente si sente subito. La cosa che non si sa, ma lo dico subito io, è che sono juventino. Sì. E così almeno togliamo subito i dubbi. Il dubbio va bene. Volevo solo dire una cosa. Quello che a me fa specie è che si calchi le mani sull'uso di un termine, un aggettivo, un verbo, chiamiamolo come vogliamo, cioè quando si usa la parola rubare, perché secondo me rubare carica molto gli animi di tutti e consente a tutti poi di cercare una rivalsa in qualche modo. Vede, la partita può essere stata falsata da episodi o da errori arbitrali, nessuno questo lo vuole mettere in discussione, ma nel momento in cui qualcuno, campione, allenatore, giornalista, usa la parola rubare, a questo punto si mette in dubbio un qualche cosa che secondo me va un po' al di là. Io sono abbastanza d'accordo con quanto lei dice, cioè io fossi un tifoso juventino, e questo i tifosi juventini lo soffrono molto, è diventato quasi un luogo comune, no? Un'etichetta che viene appiccicata, e io trovo che lei abbia ragione, caro Bellasio. No, ma rubare io infatti non ho detto. Cioè, no, c'è cioè solo la Juve, gli arbitri a chi rispondono. Per Italia, sentirsi dire i ladri siete voi, eccetera, eccetera, eccetera. Io posso capire questo sentimento del tifoso juventino, quindi io condivido quanto detto. No, ma infatti. Io non penso che ci sia mai il complotto, io non penso nemmeno al complotto ai tempi di Moggi, non penso che gli arbitri fossero allora eteropi, penso semplicemente che la Juve è una squadra che quando apre un ciclo monopolizza tutto. Ha molto potere, monopolizza tutto. Ma se l'Inter che è al governo del calcio italiano conosci abbastanza meglio di me e sicuramente di Daniele la politica sportiva in questo momento. Sì. La Roma e la Juventus sono alleate, stanno all'opposizione. L'Inter invece è stata... L'Inter ha un presidente indonesiano che a differenza di... Io infatti all'inizio dicevo invidio molto un tifoso della Sampdoria oggi, intanto perché è un bravissimo allenatore. Sì. E poi ha un presidente piacerebbe. Mi piacerebbe. Sono team Sinisa, avevamo l'allenatore perfetto per l'Inter, lo sapevano tutti ma non l'abbiamo preso. Perché molti tifosi dell'Inter vorrebbero invece Zenga? Io questo non lo capisco. Zeman, ho sentito Zeman. Cristian, ti ricordo che hai passato tutta l'estate a dire Allegri... No, e adesso hai scritto Team Allegri, per cui riposati un attimo, allegrista della prima volta. Zenga perché almeno una scelta identitaria, se devi andare ma perché? Cioè Zenga è un allenatore che non, spirito Inter è. Ma Roy Hodgson? Comunque stavo dicendo che il buon Ferrero. Ma perché non Mazzarri? Mazzarri che vi ha fatto? Ma nel calcio a volte succedono delle Castellini. Cose che al di là dei meriti o dei demeriti non si possono più sopportare. Tu non puoi prendere 4-1 in casa col Cagliari, 3-0 con la Fiorentina e dire so quali sono i problemi, li so, però non li posso dire nello stesso tempo neanche risolvere. Allora cacciamolo via e ricominciamo con la storia delle tessere che vuole. È già stato cacciato via Carlo, è già l'ex allenatore dell'Inter. Perché è ovvio, perché non tieni più una squadra dopo che hai buttato l'umore Mazzarri, io speravo, devo dire che quest'anno un po' avevo, perché secondo me la campagna acquisti non è stata neanche fatta male. No, assolutamente. Io anzi continuo a sostenere che l'Inter ha un organico da terzo posto. Esatto. Il problema è l'allenatore. E nel calcio italiano però, non esiste più quello per cui la Juve finisce in Europa League arrivano terzi poi gli danno lo scudetto, quindi è pericoloso nel livello del calcio italiano così basso, quello per cui la Juve vince i campionati ma non in Europa mai. Sono d'accordo anch'io che l'Inter di quest'anno terzo quarto. Il problema è che ha un allenatore che a differenza dell'anno scorso ha fatto un solo cambiamento. La seconda punta la mette 10 minuti prima. L'anno scorso la metteva a 15 dalla fine, adesso ogni tanto la mette all'inizio del secondo tempo. Una volta, forse due, pure partito in qualche amichevole col Sassuolo, credo. Con due, vabbè, lasciamo perdere perché si aprono. No, ma dimmi, cioè io voglio capire da uno juventino come valuta questo sentimento così diffuso. Guarda, interessa, siamo al 7 di ottobre, è stata giocata una qualche partita, leggi la classifica. Il parametro per l'Inter non è la Juventus, non è la Roma, perché per quella è irraggiungibile. Il parametro è un Napoli che è lì che sta facendo una fatica. No, ma il modo però, il Napoli non ha preso 4-1 in casa col Cagliari. Vabbè, no, ha perso in casa col Chievo. Che è già una squadra diversa. Perdere da Zeman, chiediglielo a Rocca, cosa si prova a perdere da Zeman. No, quello che io non riesco a capire... Non è spiegabile in natura come fenomeno perdere da Zeman. Quello che io non riesco a capire è questa voglia di incendiare l'allenatore dopo sei giornate e dopo... No, ma io... Guarda, io non ce l'ho, anzi, come persona mi sta anche molto simpatico. Non ce l'ho minimamente, è che non la tieni più una squadra dopo due sconfitte così, non la tieni più, lo sanno tutti, lo cambiano. Questo perché? Però Carlo, al di là... Perché serve una società. Sì. Nei momenti difficili la società che va lì e dice anche la famiglia, l'allenatore è questo e si va con questo allenatore che ha fiducia a chi ci sta. Diciamo che anche lì non stai dicendo che quando hanno preso Allegri l'hanno fatto in un modo buono. Chi? La società Juventus modello che c'entra Allegri, cioè, no, nel senso hanno preso Allegri e Allegri sa di avere alle spalle una società. Sì, però ragazzi, adesso prendersela con Torir e l'indonesiano è veramente tradizionalmente, no, perché dite manca la società, tradizionalmente con Moratti è sempre stato così, non c'è stato mai un allenatore, un giocatore, un magazziniere. No, ma infatti per Moratti è missione compiuta, è riuscito a farsi rimpiangere, è missione compiuta. Cioè è sempre stato così, diciamo, è la storia della di quella società. È c'è questa, stato un signor Mourinho che per quei due anni vi ha fatto un po' vedere cosa appunto, significa vincere in Europa con il Barcellona. Barcellona notoriamente non è un avversario. Quindi Bayern di Monaco. Ce la facciamo. Convocati. Qual è Walter Matthau e quale Jack Lemmon? Decidetelo da soli. Sono di nuovo Daniele Bellasio e Cristian Rocca. Ripeto, uno juventino, l'altro interista, Bellasio interista, Rocca juventino, entrambi malati di tifo. Sentiamoli. Alessandro da Napoli, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Vabbè, non so da che parte iniziare. Da quella che vuole. No, con gli scandali della Juventus, perché dovrei parlare del dottor Agricola e del doping. Poi dovrei passare a Giuliano Ronaldo e a Ceccarini, che somiglia molto a Rocchi, a parte la pettinatura. Poi dovrei parlare delle schede svizzere di Calciopoli. Insomma, noi stiamo dicendo le stesse frasi che si dicevano qualche anno prima che scoppiasse Calciopoli. Sono le stesse frasi. Poi andiamo a scoprire che gli recoeranno anche questi due scudetti. E probabilmente finirà così. Come no? Insomma, no, ci siamo dimenticati nella grande letteratura classica degli ultimi anni, la storia dei Rolex e dei passaporti falsi, perché questa è la letteratura classica, no? Sì, dica. Un'altra cosa. Figo, Ronaldo, Totti. Totti è un grandissimo tifoso della Roma, Figo non era un grandissimo tifoso dell'Inter, però disse più o meno le stesse cose prima di un Inter Juventus. Ronaldo, dopo Ronaldo disse le stesse cose, non mi sembrava che l'anno dopo Ronaldo restava a vita all'Inter. Quindi non parliamo di Totti tifoso, ma dobbiamo dire che Totti ha detto solo la verità, anzi lo devono deferire a Totti, perché poi devono cercare di aprire un'inchiesta per capire come funziona. Risponde Cristiano Rocca. Fa molto comodo non deferire. No, ma adesso vediamo se ci sono gli estremi, verrà deferito, semplicemente. Pardo prima ci spiegava che secondo Cesari non ci sono gli estremi giuridici per il deferimento di Totti. Cristian Rocca. No, io volevo aggiungere una cosa che forse non sapete, ma non solo Totti, anche De Rossi è intervenuto, ha fatto questa dichiarazione che vi leggo. La verità è che qui finisce sempre così. Lo dicevo anche lo scorso anno, ma tanti si arrabbiarono. Ormai ho capito che uno scudetto con la Roma non lo vincerò mai. Capitano De Rossi. Bene, De Rossi l'ha detta questa cosa nel 2009 dopo un Inter-Roma finito 3-3. Allora, se c'è una cosa che ha un senso in tutto questo è forse la frase "ho capito che uno scudetto con la Roma non lo vincerò mai". Probabilmente se tu al primo pareggio, alla prima sconfitta, alla prima cosa, prendi sempre una scusa alla Beppe Grillo, alla Bilderberg, c'è un complotto e non vincerai mai il campionato. Ma sono d'accordo, ma infatti abbiamo sottolineato prima come Garcia sia uscito a dire abbiamo perso perché abbiamo sbagliato quei due gol, abbiamo perso perché non abbiamo fatto bene, eccetera. Il grande pericolo e problema per la Roma in questo momento è quello di cascare nel vittimismo, in questo tunnel mentale per cui tanto non ce lo fanno vincere, tanto ci sono i poteri forti e tanto lo vincerà ancora la Juventus. Io credo però che Garcia abbia il vaccino contro questa malattia molto romana. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, anche io, come l'altro precedente, non saprei da dove iniziare. Allora, innanzitutto vorrei esprimere questo concetto. L'ascoltatore di Napoli ha detto bisognerebbe dire la verità della Juventus, di cui qual è la verità? Perché io ho sentito ad esempio il signor Pardo dire che Maicon è saltato verticalmente nella punizione, quando invece, vedendo le immagini, Maicon fa un passo. Mi sembra, guardi Angelo, quell'episodio mi sembra abbastanza indiscutibile per chiunque. Cioè, però ruba, fra virgolette, almeno un mezzo metro saltando in avanti e spostandosi quasi con un piccolo passettino. Allora fai ribattere e non dai rigore. Benissimo, questa era anche vera. Però gli arbitri, come gli allenatori, guardano le partite dalla mattina alla sera, lo so perché ho un amico arbitro, quindi conoscono i calciatori. Anche Rocca ne ha molti. Benissimo, no, scherzo. La questione è questa. Marchisio non è un giocatore disonesto, non è un giocatore che ha avuto dei rigori cadendo in area come faceva Inzaghi, sono juventino, parlo. Però in quell'occasione era da solo davanti al portiere, o meglio, aveva il difensore alle spalle, però era da solo a 3-4 metri dalla porta. Che senso aveva buttarsi in quella maniera? Cioè, io dico, un conto è se nel contrasto per la palla si porta. Vabbè, ho capito, ma adesso stiamo a risbriciolare la partita di tutti questi episodi. Mi sembra che l'unica cosa su cui possiamo essere tutti mediamente d'accordo è che il rigore di Maicon non ci fosse. Cioè, quello, però l'ascoltatore ha ragione. Cioè, io ero allo stadio, la sensazione l'abbiamo avuta. Fai ribattere, No, non sto parlando dell'episodio. Cioè, l'arbitro ha perso completamente il controllo della partita. Certo. Sull'episodio di Marchisio. Di Marchisio. Ha avuto il dubbio che non ha dato il rigore alla Juve, perché dopo 10 minuti dare un rigore alla Juve e espellere un giocatore della Roma, d'accordo. Fosse finita già solo così, saremmo lo stesso di qui a parlare di Juventus-Roma, interrogazioni parlamentari, le cose, eccetera. Perché purtroppo non l'ha fatto, non l'ha fatto. Appena il compagno Bellasio, cittadino Bellasio, lascia il meetup di Porta Venezia di Beppe Grillo, poi posso magari continuare. Ma da quel momento in poi ha cercato di fare ha avuto la sfiga di avere 3 o 4 decisioni. La sfiga, no, ha commesso l'errore di cambiare decisione sul rigore che vi ha dato. No, ma lì la cosa è questa. Se c'è il fallo di mano è rigore, scusami. Lì, ma lui cambia idea perché richiamato. Perché pensa, ma questa cosa del richiamato è stata accertata? Eh sì. Si ricomincia. Cristian Rocca, il direttore di Il, ricorda a tuo compagno di banco Daniele Bellasio che suggerisce Nadir da Asti all'impunito di fianco che dovrebbe essere in Serie C per i passaporti falsi, altro che fedina penale. No, ma a proposito della letteratura classica di questi anni. Ricordaglielo. Un passaporto. Non me lo ricordo, cos'è successo? Un passaporto. Lo puoi ricordare tu, che io non so questa abbiamo storia. Pagato? Abbiamo cosa pagato? Avete pagato? Scusa, non so, è stato condannato una bravissima persona come Oriali, ma di tutte le volte. Un passaporto sbagliato una volta. Vabbè. Sbagliato. Ok. Non è che per quello abbiamo vinto scudetti. No, ma io sto solo facendo il cronista. No, ma comunque ne abbiamo combinate anche noi, non c'è dubbio. Ma c'è stata la sudditanza psicologica anche nei nostri confronti, non c'è dubbio. Solo che non è secolare la cosa. No, ma guarda, la sudditanza psicologica è qualcosa che viene demonizzato, ma mi sembra una cosa normale. Cioè, sì, peraltro. Il grande arbitro, cioè l'arbitro che vuol fare carriera sa benissimo che farà carriera se andrà ad arbitrare le grandi partite, sa benissimo che se una grande squadra dice ma quello lì magari anche no, come in passato succedeva spesso, tu la carriera non la fai. E secondo me questa è sudditanza psicologica che però dentro questa cosa qui ci stanno la Juventus, sì, io non sono così positivo come te come giudizio su questo, però è nella natura delle cose, sono su questo, è così. Però questo vale per la Juventus, per l'Inter, per il Milan e per quelle due squadre che a volte sono quasi sempre la Roma ultimamente, che sono importanti per mille ragioni, soprattutto. Però scusate, se voi foste tifosi romanisti, tutte le volte arrivano un passo, tutte le volte voi avete il coup de théâtre, 17 punti l'altra volta, Cristian, hai capito benissimo. Se io fossi tifoso romanista, gol di Peluso che era gol, cioè, di che stiamo parlando? Cioè, vogliamo parlare è difficile dire che l'anno scorso la Juventus ha vinto il campionato. Ma no, ma loro lo dicono, dicono anche che il Bilderberg è il governo del mondo. Ma no, ma io non ho mai detto che c'è il complotto, non dico nemmeno più che sono ladri, lo sono stati probabilmente. Dico semplicemente che per il calcio italiano, quando c'è un dubbio a favore della Juventus, sì, anche per le squalifiche dei giocatori. Ma scusa, ma mi spiegate la squalifica dei giocatori, perché è quello della Roma uno in più? Beh, intanto perché quello della Juve non doveva essere squalificato, ma adesso neanche se tu sei estremizzi sempre. Quello della Juve ha fatto sia l'azione sia la reazione, anche fallo. Ma che stai a dire? Non sono d'accordo. Ma di che parli? Sono d'accordo con. Mi dispiace. No, guardate la partita. Dillo con chi sei d'accordo. Con Rocca. In questa situazione sono d'accordo con Rocca. Tanto che insomma mi sembra che in entrambi i casi i giocatori avevano sbagliato, le sanzioni siano eque. Da questo secondo me dovevano prendere lo stesso numero di giornate, identico, perché quello della Juve tanto è vero che Allegri, gran brava persona, interviene per togliere il giocatore della Juve, per evitare che gran brava persona che Rocca non voleva come allenatore, e che adesso non lo voleva come allenatore, ma ha fatto una campagna pazzesca su Twitter, sembrava la moglie di Agnelli contro Allegri, lista della prima ora, Allegri, vergogna, il mio motto, lasciavo stare. All'anagrafe è vero, risulto come vedova di Antonio Conte. Antonio Conte. Però, sì. Però... premio Nobel. Sì. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Andrea Agnelli, immagino. Andrea da Roma, non no, credo Andrea. Da Roma è romanista, così togliamo subito dubbi. Ecco. Ciao. Posso, salve, posso porre una domanda che ovviamente sottintende una tesi. Avete mai nella memoria una squadra che domina così fortemente da sempre? Uno dei campionati più importanti del mondo che in campo internazionale abbia vinto così poco, quasi nulla praticamente, come la Juventus? Cioè, questo è un altro grande passaggio della letteratura classica. E cioè... No. Beh, no. La letteratura è invenzione, i dati sono oggettività, siccome la storia non si fa sugli eventi, o meglio, la fanno gli eventi, ma no, i commenti non si fanno sugli eventi, si fanno sulle statistiche, visto che come statistiche ormai si fa tutto. La letteratura è creazione, i dati no. Sì. Quindi la letteratura lasciamola da parte, la letteratura la fanno i giornalisti che devono vendere copie. Non è un riferimento a lei che stimo. No, ma non è bisogno di riferimenti. Allora, in Europa ma anche nel mondo abbiamo tante squadre nazionali che in virtù di come sono fatte le azioni, le risorse, la distribuzione delle risorse economiche nei vari stati, ma anche nella storia possiamo andare indietro, io a memoria vado fino agli anni 70, avendo 50 anni. È sempre stato indietro così. Non ci vado dall'Ajax olandese di Neeskens e Cruyff all'immortale Real Madrid, alla squadra che ha vinto più titoli in Europa, il Benfica, non ha vinto praticamente nulla da molti anni, cioè ce ne sono stiamo parlando del campionato portoghese. Parlavi anche di quello, mi sono intervenuto quando hai citato quello olandese, però io posso rispondere a questa cosa. Se mi permette, non direi che possiamo paragonare come livello economico, magari adesso sì, come livello economico, ma come ricchezza nazionale il Portogallo. Ma cosa c'entra ricchezza nazionale? Non è questo il punto, secondo me. Quello però che io vorrei prima... questa cosa che la Juventus non vince mai Europa, fa schifo, fa cagare gli arbitri. Allora, Europa League l'anno scorso. Allora, questa cosa qui vorrei dire che è abbastanza importante. Allora, le squadre italiane, hanno vinto le coppe europee negli anni 60, ok? E poi c'è stato un ulteriore ritorno delle squadre italiane al vertice europeo tra la fine degli anni 80 e negli anni 90-2000, ok? Negli anni 60, quando c'erano le soldi, squadre, per motivi vari, le squadre italiane, sul calcio italiano era importante, c'erano i soldi, prendevano gli stranieri e le cose eccetera. Negli anni 60, per ragioni che non conosco perché non ero nato, Inter e Milan erano le due squadre più importanti e vincevano in Europa. Negli anni 80, fine degli anni 80, inizio anni 90, il calcio italiano è tornato di nuovo in Europa, ha cambiato il calcio mondiale con Sacchi e il Milan. E al seguito poi c'è stata la Juventus di Marcello Lippi. Da quel momento in poi, tra l'altro tutto ciò è coinciso con la nascita della Champions League, da quel momento in poi la Juventus ha fatto tre finali di Coppa dei Campioni di Champions League consecutive. Che il fatto che poi si perda una partita devi arrivarci, è arrivata, ha fatto tre finali di Coppa dei Campioni consecutive, poi dopo altri tre anni ne ha fatto un'altra contro il Milan, l'ha persa. Scusa Cristian, Mourinho ha avuto due anni, no? Conte più o meno uno in più o uguale. Conte è stato tre anni, ma non ha partecipato. Mourinho in due anni ha vinto tutto, Conte in tre anni ha vinto solo il campionato. Ma cosa c'entra? Parlando? Però diciamo anche che quell'Inter in valore assoluto rispetto alla platea europea era più competitiva di questa Juventus. La malattia dell'anti-juventinità è peggio dell'Ebola. Tutti convocati. Oh, finalmente parliamo di una bella pagina del calcio italiano, di una bella vittoria delle nostre squadre in un anno così difficile. Roma, Bayern Monaco 1-7. Tappa cruciale dei primi mesi di questa stagione sportiva, visto che è periodo natalizio e che siamo buoni. Il giorno dopo la disfatta giallorossa abbiamo convocato Alberto Polverosi del Corriere dello Sport e il duo Mario Adinolfi Paolo Cento. Eccoli qui. Roma batte Bayern Monaco, io mai sentito cantare parte. Roma batte Bayern Monaco 2-1. Qui lo dico e qui lo confermo. La Roma negli anni, e quest'anno forse ancora più degli altri anni, ha sempre avuto una squadra che ha saputo giocare a calcio e che ha saputo fare molto bene in Champions, a volte anche meglio di quanto non facesse in campionato. La sensazione è quella di spaccare tutto, veramente, cioè quest'anno non ce n'è per nessuno. Crociamo le dita e forza Roma. Siamo contenti, stasera è una bella partita. Speriamo bene, dopo tanti anni di sofferenza in Europa, speriamo bene che... Ti ritorna bene, dai. Robben in area di rigore, prova il tiro, rete, gran gol di Robben, dentro per Müller, prova il ritorno per Götze, rete, il della Bayern, sorpreso De Santis, alla cross Bernat, palla in mezzo Lewandowski, sono tre, Lewandowski rende palla per Robben, e la poker della Bayern, la Roma proprio non c'entra, De Müller, esecuzione perfetta, 5-0 del Bayern, Olevas, pallone per il greco, in mezzo c'è Gervinho, attenzione, è il sesto gol segnato Ribéry. Rafinha che va al tiro, sfugge il pallone a De Santis, attenzione la porta è vuota, sono sette. Ci abbiamo preso tutti, tutti ottimisti, ci abbiamo preso tutti quanti, io che avevo pronosticato 2-1, lo stesso Pardo, i tifosi, abbiamo sentito l'entusiasmo, ce n'è per nessuno. 1-7. Alberto Porverosi, che di Bayern, di Roma Bayern, ha scritto oggi sul Corriere dello Sport sotto il titolo Bayern di un altro pianeta servizio di apertura. Ciao Alberto. Ciao. Siete stati un po' impietosi, però troppo facile, è così. Troppo facile. All'inizio mi sembrava Inter-Cagliari. Poi è diventato subito Brasile-Germania. Tra l'altro, curiosamente, al 24esimo 3-0, sia Brasile-Germania che Roma-Bayern. Sì, ma Inter-Cagliari non c'è fra l'Inter e il Cagliari la stessa differenza che c'è fra il Bayern Monaco e la Roma, insomma, francamente ce n'è tanta di più. Ma siete stati impietosi, perché questi sono esercizi che si possono fare, cioè, nell'82 che si poteva fare, ti ricordi, no? Alla fine del girone eravamo già a casa e poi siamo diventati campioni del mondo, forse sì. Quella è stata la punta più alta, però il calcio per fortuna ti racconta queste storie, perché sennò sicuramente non sarebbe bello. Com'è, si può parlare di presunzione? È stata una Roma presuntuosa come la famosa rana troppo gonfia che ha provato a giocare a pallone con il Bayern di Monaco, ma col Bayern di Monaco, che insieme al Real Madrid sono nettamente di un altro pianeta rispetto a tutte le altre, non si può giocare a pallone con il Bayern Monaco. No, io credo che la Roma abbia, allora, la presunzione è stata evidente, palpabile, se può essere palpabile la presunzione in quella partita, lo è stata, ma credo che la Roma abbia confuso il voler giocare alla pari col Bayern Monaco col non difendere. Cioè, io credo che ogni squadra ha le sue caratteristiche. La Roma finora aveva avuto una difesa, ha basato molto, perché la Roma è una squadra spettacolo, diverte, eccetera, ma ha basato molto sulla forza della difesa, non dei difensori, ma sulla forza del suo assetto difensivo, che prevedeva sempre una difesa fissa con tre giocatori, i due centrali più De Rossi, una difesa solida. Ma ieri questa difesa proprio è stata spazzata via dalla sua presunzione, dalla sua dissennatezza. Ma io non dico che, allora, per evitare confusione, giocare alla pari col Bayern Monaco non vuol dire giocare come il Bayern Monaco, certo, ma vuol dire giocare la partita da Roma alla pari del Bayern Monaco. Ieri la Roma non ha giocato una partita, non ha attaccato, ma soprattutto non ha difeso. Le squadre italiane che si riparano, si mettono la mano sulla faccia e vanno allo scontro fino a che non, poi tanto alla fine non cadono giù e perdono 2-0, cioè, come è successo alla Juventus col Bayern Monaco, quelle non le sopporto, ma non le sopporto, non mi piacciono. Ma la Roma ieri ha fatto una cosa peggiore, perché ha pensato di giocare attaccando senza occuparsi della difesa. Ma la Roma si occupa della difesa, anche se preoccupa della difesa anche quando gioca contro il Chievo, sicuramente contro il Chievo vanno tutti belli beati e non marcano Paloschi, marcano anche Paloschi. Ma certamente. Ieri Robben quando è entrato in area di rigore sul primo gol, Robben è stato, era uno schema su allenamento, sì, questo intendo dire. Questo l'ho detto, questo 1-7 è un incidente, questo giocherai una di due settimane e ti scommetto quello che vuoi che non finirà così e non sarà così. No, te lo dico io, vedrai. Nonostante questo risultato io non credo che ci sia questa differenza. C'è differenza fra noi e loro, ed evidente, c'è differenza fra loro e forse il 90% delle squadre del mondo. Beh, se De Rossi dice non c'è tanta differenza, non, io non so cosa rispondere. Ha ragione invece Guardiola quando dice che tra, diciamo, questa sconfitta è quasi paradossale, quasi caricaturale, che non potrà ripetersi. Intanto esiste. Onorevole Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio, buongiorno. Buongiorno. Quanto è incazzato? Mi sentite? Sì, la sentiamo. Adesso vi sento meglio. Quanto è incazzato? Quanto è arrabbiato? Sono arrabbiato, sì, sono arrabbiato perché abbiamo fatto contenti tutti i gufi d'Italia che stavano lì sul trespolo, quelli veri, sì. Veri, non quelli che evoca Matteo Renzi. E brutta pagina, ma va bene così. Ci teniamo questo 7-1 e dice Garzia serva da lezione. Vediamo, ne avrei fatta meno volentieri di questa lezione. Sì, è stata un'esibizione di presunzione, secondo lei? Secondo me è stata la dimostrazione del gap che c'è tra il calcio italiano e il campionato italiano e il resto d'Europa, in particolare il campionato tedesco. È stata la dimostrazione della differenza che c'è tra la Roma e il Bayern, che è una differenza enorme. È stata la dimostrazione di una serie di errori, forse anche di atteggiamento psicologico, però credo che la Roma non è scesa in campo. Se fossi la società Garzia, insomma, mi interrogherei, perché è stato un blackout peggio di quello con il Manchester United. Certo, sì. Certo, anche perché questa squadra è più forte di quella, questa Roma, sì. È più forte di quella, eccetera eccetera. Probabilmente a forza di dire la Roma è bella, è forte, può competere con tutti, è una squadra che può avere per caratteristiche un DNA europeo, può giocare questa Champions League senza particolare assillo, divertendosi in queste grandi partite. Probabilmente abbiamo ripetuto questi ritornelli tutti quanti un po' troppo. Infatti ieri allo stadio dicevamo si era parlato troppo bene della Roma da parte di troppi, e questo un po' pesante, sì. Da parte dei gufi, ma la Roma è una squadra forte, cioè non è che la partita di ieri cancella le cose di buono che ha fatto. La Roma è sempre seconda in un girone dove, quando fu fatto il sorteggio, nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto che la Roma poteva giocarsi la qualificazione, e forse anche per questo fa male la sconfitta di ieri, sì. Dice anche che la Roma ha non in tutti i reparti è una squadra europea, questa verità ieri è emersa, non è solo, sì, sì. O forse non ancora. Non sono così d'accordo sul fatto che tra il calcio italiano e quello tedesco ci siano sei gol di differenza. Questo no. Una certa differenza sì, ma c'è differenza tra la Roma e il Bayern, il Real Madrid e tutte le altre, sì. Paolo Cento, non so quanto le faccia piacere oggi parlare con Mario Adinolfi. Dica la verità. Tocca fare di tutto. Mario Adinolfi, buongiorno. A proposito, ciao, e un saluto a Paolo, a me fa piacere parlare con lui, soprattutto oggi. Io ho sempre dichiarato apertamente che sono favorevolissimo al gufismo, al tifo contro, che del ranking UEFA me ne importa fino a un certo punto, perché il calcio è una questione di sentimenti. E Mario Adinolfi oggi ha twittato: leggo risentimento verso chi ricorda Garcia e Totti il siamo i più forti, mica penserete di perdere 7-1 senza essere sfottuti, vero? Pensa se succedeva a noi che sarebbe accaduto oggi sulla teorizzazione della supremazia bianconera solo in Italia, sì. E non in Europa. In Europa non è che avete un bel curriculum in Europa, ricordarvi infinitamente migliore del mondo. Che vincete in Italia e in Europa non lo trovate così spianato come vi capita nel campionato. Comunque oggi è difficile parlare di Juve, oggi ci dobbiamo concentrare sulla Roma di Luis Enrique, di Zeman e di Garcia, unite da un unico destino, diciamo così, il destino di chi non vince mai niente, quello è il destino di questa, diciamo, decantata gestione. Mario, qual è la differenza tra il nostro destino e il vostro? Sì. È che chi ti fa Roma non perde mai, come ha dimostrato ieri uno straordinario pubblico giallorosso alla fine della partita. Adesso capitava a voi, stavate già con le uova in mano, perché non sapete né vincere e né perdere. Né vincere, allora, né... Adesso Adinolfi dirà che Rocchi in Europa non c'era, perché dirà questo. Ma no, il tema è qui, il tema è serio, perché io sono un romano di testaccio, lo dovete capire questo. Io sono un romano di testaccio della Mola Antonelliana. No, però. Romano di testaccio, io sono nato a Roma e cresciuto tutta la vita a testaccio. Sei sempre dalla parte dei vincenti, vedi quanto un pochino controverso, diciamo. In 30 anni di storia, diciamo, partendo dall'83, dallo scudetto 83, diciamo, il calendario romanista è scandito dalla vittoria dello scudetto in estate, questo è sempre così, è scudo, dicono. In autunno c'è l'esaltazione del poveretto di turno. Zeman le prime due partite fece 100.000 spettatori, 50.000 e 50.000 in casa. Dopodiché comincia il disastro. Io dico, ma come è venuto in mente a Garcia di fare quella conferenza stampa dicendo siamo i più forti? Beh, ma secondo non ha fatto male. Di venerdì 17 poi l'ha fatto, una cosa proprio, un errore gravissimo. Questo può essere un errore gravissimo dal punto di vista della Scaramanzia, ma non è sbagliato. Non è sbagliato dire la mia squadra è forte. La mia squadra è forte. Due tweet prima di quello che hai letto te. Io ho scritto stasera tipo Roma. E non era vero. Stasera tipo Roma. Stasera ti fa Juve. Paolo Cento, stasera ti fa Juve, no? Non avete, Paolo Cento ti fa Juve, no, stasera? Io stasera ti fo Juve, sì, sono già, ho preso il Trespolo, l'ho tolto perché non c'è bisogno, ti fo Juve, poi con una squadra particolarmente simpatica dalla Grecia, dai, gli diamo anche un connotato politico, sociale, non ci sia la rivolta della Grecia. Certo che fa stupore sentire parlare i tifosi juventini della Roma, ma non riuscite a farne a meno di parlare della Roma, il vostro complesso di inferiorità. Vi capisco, perché noi siamo la capitale sempre. Voi qualcuno divertente Roma pensa, andate a tifare la Juventus, se pensa come state ma, con i... ma al corno si può comandare, a prescindere da di Juve Roma, quella è una cosa divertente. Per da 15 giorni c'è De Santi, Totti, Garzia, che hanno parlato solo di Juve Roma, dove hanno preso altri tre. Poi, per carità, ne prendi 7 dal Bayern, 3 dalla Juventus, ma fatti il Chievo. Consigli con l'aglietto, ma va bene così. Ma molti diranno anche Paolo Cento che là c'è la Rocchi qua, no? Mario. No. Juve Roma non se ne parla più fino a quando non accettate la Moviola in campo. Quando l'accettate ne fino a Roma ne torneremo a parlare. Tutti gli anni facciamo la stessa cosa. Le chiacchiere prima, tre fizioni a casa. Funziona sempre. Ma a chi scrive se De Piangis parlasse di meno e parasse di più, Paolo Cento cosa risponde? Ora sui giocatori della Roma, della partita di ieri, è inutile fare distinzioni perché hanno giocato tutti male, ma insomma ora non è che si scoprono. Ieri la Roma ha dimostrato di avere dei limiti di fronte a una grande squadra come il Bayern, questo è un monito per l'allenatore e per la società, anche rispetto alle campagne acquisti che forse andrebbero fatte con meno quantità e più qualità. Detto questo, ragazzi, non ne facciamo un dramma, la Roma c'è, la Juventus se ne faccia una ragione. Le parole di Garcia, che tanto hanno creato scalpore a Mario Adinolfi, sono di un allenatore che vi ha voluto comunicare che la Roma c'è nel campionato italiano, c'è anche nelle qualificazioni che si giocherà fino alla fine per la Champions League, e vi dovete abituare a questo dato di fatto, come negli anni 80, nonostante i centimetri ci siamo. La Roma è lì. Nonostante i centimetri. Come negli anni 80 mi piace, non lo hanno vinto mai, un anno solo, va bene, così va bene. Ma il problema della Roma è il romanismo. Cioè, questo bisognerebbe indagare questo universo del romanismo. Ieri lo stadio strapieno, io ho parlato con tutti i romanisti che erano convinti di vincere, non di fare fatica a pareggiare la partita, ma convinti di vincere, perché ovviamente l'allenatore l'aveva gonfiati su questo punto. Mi ricordava Zeman che voleva andare a Torino con la Juve e dominare allo stadium dicendo adesso andremo a fare ma quella è un'altra cosa, dopo questa è un'altra squadra, tre gol. È come se avessi preso un cazzotto da Dyson oggi. Tutti convocati. La perfidia di Piantanida non ha confini e dunque anche nell'ultimo blocco di questo programma vi riproponiamo un argomento morbido. Due settimane dopo Juventus-Roma l'arbitro Rocchi decise di vuotare il sacco, di parlare, aprendo un fronte interessante, un capitolo interessante. Ma è giusto che gli arbitri stiano in silenzio? È giusto che non si presentino in conferenza stampa? È giusto che non rendano pubbliche le loro opinioni? Secondo me no. Ma l'abbiamo chiesto al grande Paolo Casarin. The garden was blessed by the gods of me and you. Cos'è what you have done on Saturday? We for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? Ce l'ha con me stesso, no, chiaramente mi sono reso conto rivedendola che potevo fare meglio, quello sicuramente. Avercela con me stesso, no, io ho fatto semplicemente quello che ho sempre fatto, sono andato in campo, ho dato il massimo, in quella partita, se devo essere sincero, più del massimo, perché la partita me lo ha richiesto, viste le tante situazioni difficili, e non ho niente da rimpiangere. Io sono un arbitro molto istintivo, cioè io vedo una cosa, quello che vedo faccio, e difficilmente rifletto, o meglio, non è che non rifletto, è che il 95% le mie decisioni vengono di istinto. Fortunatamente spesso sono corrette, le volte che sbagli chiaramente non avendo quel pizzico forse di riflessione in più puoi commettere qualche leggerezza in più. Molto, sono sincero, non la prendo molto, poi magari mi passa, però lì per lì, siccome è una cosa che faccio con una passione smisurata, se lei dedica un'attività, una passione molto forte, e nel caso che non riceva una gratificazione ma una delusione, la delusione è molto forte. Quindi sta dicendo che si assume la responsabilità per quanto riguarda la gestione poi della partita, di come è andata poi la partita? Guardi, io credo di avere mille difetti, ma di avere un pregio, di assumermi sempre la responsabilità delle cose che faccio, per cui in quella partita mi assumo la responsabilità di aver fatto delle scelte, mi permetta di dirle che sono state scelte almeno 5 decisioni assolutamente direi difficili, credo sia riduttivo. Io ho un profondo rispetto per Paolo Casarin, che saluto e ringrazio. Ciao, sì, buongiorno. Buongiorno. Ciao, ciao. Con il quale abbiamo discusso a lungo anche di recente pubblicamente sull'opportunità della voce degli arbitri, di conferenze stampa degli arbitri. Adesso io voglio chiederti, Paolo, queste parole di Rocchi come le valuti? Ma è una dichiarazione che è stata concordata, io credo, perché non può avvenire salvo poi squalifiche di anni, no? Senza una linea di contatto con il presidente dell'AIA, quindi immagino che sia successo così. Lui ha fatto una dichiarazione che ho visto solo in parte, cioè solo quella che il telegiornale ha fatto vedere, non quella alla sera. E credo che insomma sia stato un atteggiamento anche corretto, se vogliamo, no? Cioè che poi l'arbitro abbia detto qualcosa su quello che ha combinato, cosa rarissima come sappiamo, soprattutto rarissima quando si sbaglia, no? Come più o meno lui ha detto ieri sera, adoperando parole smussate, ma insomma la realtà è che la svolta della partita è stata quella in coincidenza con il primo rigore, insomma. Sì. Pierluigi, Paolo Casarin è contrario, da designatore lo era, ed è eticamente contrario, filosoficamente contrario comunque alle conferenze stampa arbitrali, al fatto che gli arbitri parlino dopo le partite. Pierluigi. Ma il tema è lungo e complesso. Io credo che in generale, proprio filosoficamente, il riconoscimento dell'errore sia una grande forma anche per depotenziare le critiche, nel senso che nel momento nel quale io vengo accusato di qualcosa e dico ragazzi ho sbagliato, è chiaro che insomma, al di là del fatto che uno può pensare che io sia comunque in malafede, può pensare che io sia scarso, però io comunque la mia assunzione di responsabilità la faccio ed è quello che è successo a Rocchi. Detto questo, posso capire che parlare continuamente partita dopo partita di situazioni arbitrali potrebbe indebolire o potrebbe portare a un eccesso di polemiche ulteriore. Quello che secondo me sicuramente non va fatto è difendere l'indifendibile, lo dico con chiarezza. Cioè la dichiarazione 10 giorni dopo Rocchi ha arbitrato benissimo è una dichiarazione che non ha nessun significato, è veramente il più grande autogol che si... Cioè ti riferisci a quella di Nicchi? Ma assolutamente, dai, è il più grande autogol che si possa fare secondo me, perché significa non capire dove si sta sinceramente, secondo me. Poi, sentiamo secondo Casarino. Voglio dire, l'affermazione che hai fatto, che io sono filosoficamente contrario, è in parte vera, perché come qualcuno di voi si ricorderà, sono passati un po' di anni, Collina ha fatto la prima e ultima dichiarazione in conferenza stampa dopo la partita su mia autorizzazione, sì, evidentemente, sì, perché a quei tempi non è che uno potesse fare quello che voleva, no? Più o meno, no? Ecco, e la ritenni assolutamente giustificata proprio perché Collina già ne aveva fatta una di conferenza in campo. Allora ci dicemmo in quella serata là di Juventus, di Inter Juventus, beh, hai parlato a lungo con questo, con quello, con allenatori, giocatori, adesso perché non parlare, dire ai giornalisti quello che hai detto a loro e chiarire. No, c'è un fatto, però bisogna essere anche sotto questo aspetto chiaro. Una cosa è parlare forti del fatto di aver visto bene, no? Era il caso di Collina di allora. Una cosa è parlare avendo, mi pare di vedere che anche da Rocchi trapela, visto non sempre bene, no? Diciamo così, no? Sì. Molto più difficile ovviamente, no? Quindi c'è un travaglio diverso, eccetera eccetera. Io dico che bene o male un rapporto tra il mondo arbitrale e il pubblico, inteso i giornalisti, il pubblico stesso, eccetera, deve avvenire. Cioè deve avvenire nella maniera giusta. Difficile pensare che a fine partita questo, se gli arbitri siano già maturi per poter maturi, cioè abbiano fatto un'analisi, abbiano rivisto un po' le cose eccetera, per sostenere un qualche cosa di ragionevole, perché a fine partita è difficile che un arbitro riconosca gli errori, però dopo un certo momento direi che esiste questa specie di autoanalisi e quindi perché non dire anche alle persone. Sotto questo aspetto trovo il gesto di Rocchi, ancorché mi si dice così, molto circospetto, comunque un passo in avanti e anche un atto di riconoscimento dell'errore. Però Pardo, se sei tu che mi stai parlando, adesso non capisco più chi mi parla, sì. E comunque era lui. Capuano è lo stesso. Era lui. Io devo dire che contemporaneamente a questo deve emergere anche ed essere ribadito che un arbitro può sbagliare, no, deve magari dire come mai ha sbagliato, rivedendosi può anche capirlo, la posizione, la copertura, la velocità, la difficoltà obiettiva, no? Perché poi c'è il momento in cui qualsiasi cosa dici, qualsiasi cosa fischi o di qua o di là sbagli, insomma, no? Perché non c'è, il calcio è pieno di robe al 50%, no, è chiaro. Ecco, quindi non so se vi ho risposto filosoficamente, sì, contrario, se non sei preparato, se non sei preparato, ma la preparazione la raggiungi in questi tempi con la tecnologia in maniera praticamente in tempo reale. Poi come voi sapete, io lo sapete, immagino, assolutamente lo so. A favore lui è la tecnologia. Ecco, cioè per me il calcio non è una cosa unica, c'è cioè il calcio dei super professionisti che tra l'altro hanno regole